Sei, addio. L'ultimo giorno arrivò. La casa era piena di casse da imballaggio che erano state trascinate fino all'ingresso principale, destinate alla stazione dei treni più vicina. Persino il bel prato di casa era diventato brutto e sciupato a causa della paglia trasportata dal vento attraverso la porta e le finestre aperte. Nelle stanze risuonava un'eco strana e una luce abbagliante entrava con violenza dalle finestre senza tende che già sembravano estranee e sconosciute. La camera della signora Hale venne lasciata intatta fino all'ultimo e al suo interno lei e Dixon impacchettavano gli abiti che di tanto in tanto si interrompevano a vicenda per emettere un'esclamazione, rigirando con devoto rispetto tesori ormai dimenticati, ovvero vecchie cose di quando i bambini erano piccoli. Non andavano molto avanti col lavoro. Al piano di sotto Margaret stava in piedi, calma e composta, pronta a dare indicazioni e consigli agli uomini che erano stati chiamati ad aiutare la cuoca e Charlotte. Queste, per lo più fra le lacrime, si chiedevano come facesse la giovane signora a reggere così quell'ultimo giorno e stabilirono che probabilmente non le importava molto di Helston, essendo stata così a lungo a Londra. Eccola lì, in piedi, pallidissima e silenziosa, con i suoi occhi grandi e seri che osservavano tutto, ogni singolo evento di quel giorno, per quanto piccolo. Non potevano capire quanto lei stesse soffrendo tutto il tempo, quanto forte fosse la pressione al petto che nessun sospiro riusciva a eliminare o alleviare, e come l'esercizio costante delle sue facoltà percettive fosse l'unico modo per trattenere un pianto di dolore. Per di più, se lei avesse ceduto, chi si sarebbe dato da fare? Suo padre era in sagrestia a esaminare documenti, libri, registri e quant'altro con il funzionario. Quando rientrò c'erano da impacchettare i suoi libri, cosa che nessuno avrebbe saputo fare meglio di lui. D'altronde Margaret era una di quelle persone che si lasciavano andare in presenza di estranei, o perlomeno davanti a persone di casa come la cuoca e Charlotte. No, non lei. Ma finalmente i quattro imballatori andarono in cucina per il loro tè e con movimenti meccanici e lenti Margaret si spostò dal punto della sala in cui era stata in piedi così a lungo. Attraverso il salotto risonante e spoglio uscì fuori nel crepuscolo di una serata di inizio novembre. Un sottilissimo velo di nebbiolina leggera e opaca oscurava, senza nasconderli, tutti gli oggetti, conferendo loro una sfumatura lilla, dato che il sole non era ancora completamente tramontato. Un petirosso stava cantando. Forse, pensò Margaret, era proprio quel petirosso di cui suo padre aveva spesso parlato come del suo animaletto invernale, per il quale aveva costruito con le sue mani una specie di casetta vicino alla finestra del suo studio. Le foglie non erano mai state così incantevoli. Il tocco del primo gelo le avrebbe adagiate tutte per terra. Di già alcune cadevano, fluttuando costantemente, con i colori dell'ambra e dell'oro, sotto i deboli raggi inclinati del sole. Margaret proseguì la camminata lungo il muretto dei peri. Non c'era più stata dopo la passeggiata al fianco di Henry Lennox. Qui accanto a quel letto di timo, l'uomo iniziò a parlarle di ciò a cui ora non doveva pensare. I suoi occhi si erano posati su una rosa tardiva mentre cercava di rispondere, e l'idea della vivida bellezza delle foglie piumose delle carote l'aveva colpita nel bel mezzo della sua ultima frase. Soltanto 2 settimane prima, e tutto era così cambiato. Dov'era lui adesso? A Londra stava facendo il suo giro abituale, cenando con la vecchia cerchia di Harley Street o con i nuovi intraprendenti amici. Proprio in questo momento, mentre lei camminava triste per quel giardino umido e tetro al tramonto, mentre tutto intorno a lei moriva, sbiadiva e si decomponeva, forse lui, messi felicemente via i suoi codici dopo una pagante giornata di duro lavoro, si stava rinvigorendo, come le aveva detto che faceva spesso, andando a correre ai Temple Gardens, sopportando nel frattempo il forte e inarticolato frastuono di decine di migliaia di uomini invisibili impegnati in qualcosa, lì vicino, e continuando a guardare di sfuggita nelle sue rapide svolte le luci della città che emergevano dalle profondità del fiume. Aveva spesso raccontato a Margaret di queste corsette, di cui approfittava nelle pause tra lo studio e la cena. Gliene aveva parlato quando i tempi erano migliori, come pure i suoi stati d'animo, e tale ricordo aveva colpito la sua immaginazione. Non c'erano suoni qui. Il pettirosso era scomparso nel vasto silenzio della notte. Di tanto in tanto la porta di una casetta in lontananza veniva aperta e richiusa, come per far entrare in casa il bracciante stanco, ma sembrava un rumore remoto. Il suono furtivo e strascicato delle foglie cadute nella foresta, che scricchiolavano e si sgualcivano oltre il giardino, sembrava molto vicino. Margaret sapeva che si trattava di un bracconiere. Seduta nella sua camera da letto, l'autunno precedente, con la luce della candela spenta e nel puro godimento della solenne bellezza del cielo e della terra, più di una volta aveva visto la luce dei bracconieri che scavalcavano la staccionata del giardino senza fare rumore, attraversavano veloci il prato bagnato dalla rugiada e illuminato dalla luna e scomparivano nell'oscurità buia e silenziosa dall'altra parte. La libertà della loro vita avventurosa e selvaggia aveva fatto colpo su di lei. Si sentiva di voler augurare loro successo, non li temeva, ma quella sera aveva paura, non sapeva perché. Sentì Charlotte che chiudeva le finestre e le serrava per la notte, ignorando che ci fosse qualcuno fuori in giardino. Un piccolo ramo, poteva essere di legno marcio o spezzato con la forza, cadde pesantemente nella parte più vicina del bosco. Margaret si mise a correre, veloce come Camilla, la vergine guerriera di Virgilio, leggiadra ed eroica, giù fino alla finestra, e tutta tremante picchiettò frettolosamente su di essa, facendo sussultare Charlotte. Fammi entrare, fammi entrare, sono io, Charlotte! E il suo cuore non smise di palpitare finché non fu al sicuro in salotto, con le finestre sigillate e sprangate, circondata e protetta dalle mura domestiche. Si era seduta sopra una cassa da imballaggio, cupa e fredda. Era la triste stanza smantellata, niente fuoco, nessun'altra luce tranne la lunga, inestinguibile candela di Charlotte. Charlotte guardò Margaret sorpresa. Margaret, accorgendosene, più che vedendola, si alzò. Ho temuto che mi stessi proprio chiudendo fuori, Charlotte, disse accennando un sorriso. E poi non mi avresti mai sentita in cucina, i cancelli del viottolo e del cimitero sono chiusi a chiave da un bel pezzo. Oh, signorina, avrei sicuramente sentito presto la vostra mancanza. Gli uomini avrebbero avuto bisogno di voi per sapere come procedere. Ho servito il tè nello studio del signor Hale, dato che è la stanza più confortevole, per così dire. Grazie, Charlotte, sei una cara ragazza, mi dispiacerà lasciarti. Devi cercare di scrivermi, sai, se mai avrai bisogno di qualche piccolo aiuto o di un buon consiglio. Mi farà sempre piacere ricevere una lettera da Helston. Devo assicurarmi di spedirti il mio indirizzo appena lo saprò. Lo studio era preparato per il tè. C'era un bel fuoco vivo e le candele sul tavolo erano spente. Margaret si sedette sul tappetino davanti al caminetto, in parte per scaldarsi, dato che l'umidità della sera era rimasta sul suo vestito e perché l'eccessiva stanchezza le faceva sentire freddo. Manteneva l'equilibrio tenendosi le ginocchia con le mani incrociate, il capo piegato leggermente verso il petto. Qualsiasi fosse il suo stato d'animo, la posa era quella di chi è avvilito. Ma quando udì i passi di suo padre fuori sulla ghiaia, balzò in piedi e scuotendo velocemente all'indietro i pesanti capelli neri e asciugandosi qualche lacrima che non sapeva come le era scesa sulle guance, andò ad aprirgli la porta. Sembrava molto più abbattuto di lei. Riuscì a stento a farlo parlare, sebbene cercasse di conversare di argomenti che normalmente lo interessavano a costo di uno sforzo che ogni volta pensava sarebbe rimasto l'ultimo. Hai camminato molto oggi? Domandò lei, vedendo che si rifiutava di toccare cibo. Fino alle spiagge di Fordham. Sono andato a trovare la vedova Maltby. È molto addolorata per non averti salutata. Dice che la piccola Susan ha continuato a guardare giù nel viottolo per giorni. Ma Margaret, cosa c'è che non va, cara? Oh, il pensiero della bimbetta che l'aspettava e che restava continuamente delusa, non per noncuranza da parte sua, ma semplicemente perché non poteva lasciare la casa, Fu per Margaret la goccia che fece traboccare il vaso e pianse così forte che sembrava le si spezzasse il cuore. Il signor Hale era perplesso e angosciato, si alzò e camminò nervosamente su e giù per la stanza. Margaret tentò di controllarsi, ma non avrebbe parlato finché non fosse stata in grado di farlo con una certa fermezza. Lo sentì dire qualcosa, come se stesse parlando da solo. Non ce la faccio, non ce la faccio a guardare la sofferenza altrui. Penso di poter a malapena sopportare la mia. Oh, non si può tornare indietro. No, padre mio, disse Margaret guardandolo dritto in faccia e con voce bassa e ferma. È un male credere che tu sia in errore. Sarebbe infinitamente peggio saperti un'ipocrita. Abbassò la voce a quelle ultime parole, come se per un attimo accarezzasse l'idea dell'ipocrisia in relazione all'aria insolente del padre. D'altronde, continuò, è solo che sono stanca stasera. Non pensare che stia soffrendo per quello che hai fatto, papà caro. Nessuno dei due è in grado di parlarne adesso, credo, disse, accorgendosi che le lacrime e i singhiozzi sarebbero arrivati suo malgrado. È meglio che vada dalla mamma a portarle una tazza di tè. Ne ha bevuto uno molto presto, quando ero troppo impegnata per andare da lei, e sono certa che le farà piacere berne un altro ora. L'orario del treno li strappò inesorabilmente dalla bella, amata Helston la mattina dopo, e se ne erano andati. Avevano scorto la parte finale della canonica, lunga e bassa, ricoperta per metà da rose cinesi e da frutti di agazzino. Sembrava più familiare che mai, col sole mattutino che luccicava sulle finestre, ciascuna appartenente a una beneamata stanza. Ancor prima di essersi sistemati nella carrozza mandata da Southampton per portarli in stazione, se n'erano andati, per non fare più ritorno. Una fitta al cuore spinse Margaret a sforzarsi di guardare fuori per afferrare l'ultimo scorcio della vecchia torre della chiesa, dalla curva dove sapeva di poterla vedere al di sopra del mare di alberi della foresta. Ma anche il padre se ne ricordò e in silenzio riconobbe che lui aveva più diritto di lei a quell'unico finestrino dal quale si riusciva a vedere. Si appoggiò all'indietro e chiuse gli occhi. Le lacrime sgorgarono dopo essere rimaste per qualche istante a brillare sulle ciglia che facevano ombra, prima di rotolare lentamente giù per le guance e cadere inosservate sul suo vestito. Dovevano fermarsi per la notte a Londra in qualche piccolo albergo tranquillo. La povera signora Hale aveva pianto a modo suo quasi tutto il giorno e Dixon mostrava il suo dolore con un estremo senso di fastidio, e tentando in modo irritante di far sì che la sua sottogonna non toccasse l'ignaro signor Hale, che lei riteneva responsabile di tutta quella sofferenza. Passarono per strade ben conosciute, davanti alle abitazioni che spesso avevano visitato, alle botteghe dentro le quali Margaret aveva perso tempo, impaziente, a fianco di sua zia, mentre la signora prendeva decisioni importanti e interminabili. Anzi, sicuramente passarono davanti a persone conosciute che camminavano per strada. Infatti, per quanto la mattinata fosse stata incalcolabilmente lunga per loro e si sentissero come se l'oscurità dovesse essere già calata e fosse il momento del riposo, quando giunsero a Londra era l'ora più movimentata di un pomeriggio di novembre. Era da tanto che la signora Hale non andava a Londra e si alzò quasi come una bambina per guardare le varie strade intorno a lei, i negozi e le carrozze, alla vista dei quali esclamò: «Oh, lì c'è Harrison, dove ho comprato molte cose per il matrimonio. Santo cielo, com'è cambiato! Le vetrine erano immense, più grandi di quelle di Crawford a Southampton. Oh, e laggiù, secondo me, è... No, non è... Eh sì, che è, Margaret. Abbiamo appena passato il signor Harry Lennox. Chissà dove starà andando in mezzo a tutte queste botteghe. Margaret si tirò su e con la stessa rapidità ricadde all'indietro, quasi sorridendo a se stessa per quel movimento improvviso. In quel punto erano lontani centinaia di metri, ma le sembrava come una reliquia di Helston. Lo associava a una bella mattina, a una giornata ricca di eventi, e avrebbe dovuto farle piacere vederlo senza essere vista, senza la possibilità che si parlassero. La serata, senza occupazioni, trascorse in una stanza ai piani alti di un albergo. Fu lunga e pesante. Il signor Hale uscì per andare dal suo libraio preferito e per passare a trovare un paio di amici. Tutti quelli che incontravano, sia nelle case che per la strada, sembravano avere fretta di recarsi a un appuntamento, essere attesi da o in attesa di qualcuno. Soltanto loro sembravano forestieri, senza amici e demoralizzate. Eppure, a neanche un miglio da lì, Margaret conosceva una a una case dove lei, perché era amata, e sua madre, per via della zia Shaw, sarebbero state le benvenute se vi si fossero recate felici o a cuor leggero. Se fossero arrivate rattristate e alla ricerca di comprensione in una situazione complicata come quella attuale, si sarebbero sentite come ombre in quelle case di conoscenti, ma non di amici. La vita di Londra è troppo frenetica e impegnata per consentire almeno un'ora di quel profondo silenzio partecipe che tennero gli amici di Giobbe quando sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti e nessuno gli rivolgeva una parola perché vedevano che molto grande era il suo dolore. 8. Scenari e volti nuovi. Il pomeriggio seguente, a una ventina di miglia da Milton Northern, si immisero nella piccola diramazione ferroviaria che portava a Heston, un'unica strada lunga e sperduta che fiancheggiava il mare. Heston possedeva un carattere tutto suo, diversa dalle piccole località di mare nel sud dell'Inghilterra, come queste a loro volta erano diverse da quelle sul continente. Per usare un'espressione scozzese, ogni cosa sembrava avere un suo scopo. I carri di campagna avevano più ferro e meno legno e pelle attorno alla bardatura dei cavalli. La gente per strada, seppur intenta allo svago, aveva comunque la mente indaffarata. I colori apparivano più grigi, più resistenti, poco allegri e vivaci. Non si vedevano camiciotti da lavoro, nemmeno tra la gente di campagna. Rallentavano i movimenti e tendevano a impigliarsi nei macchinari, pertanto si era persa l'abitudine di indossarli. In città simili, nel sud dell'Inghilterra, Margaret aveva visto che i bottegai, quando non erano impegnati nella loro attività, se ne stavano in ozio sulla porta, godendosi l'aria fresca e guardando su e giù per la strada. Qui, se avevano un po' di tempo libero in assenza di clienti, si trovavano qualcosa da fare in bottega. Persino, pensò Margaret, una cosa inutile come srotolare e riavvolgere i nastri. Tutte queste differenze la colpirono la mattina dopo, quando uscì con la madre per cercare un altro alloggio. Le 2 notti in albergo erano costate al signor Hale più del previsto e furono lieti di poter prendere le prime stanze pulite e accoglienti che trovarono. Lì, per la prima volta dopo tanti giorni, Margaret finalmente si rilassò. Un'atmosfera sognante rendeva ancora più piacevole e perfetto il riposo. Il mare lontano si frangeva contro la spiaggia di sabbia con un suono lieve. Più vicine le grida dei ragazzi con gli asinelli. Scene insolite le passavano davanti come delle immagini che in quello stato di torpore non si curava di capire fino in fondo prima che svanissero. La passeggiata sulla spiaggia per respirare l'aria di mare, leggera e calda, lungo il litorale sabbioso anche a fine novembre, la lunga e sfocata linea dell'orizzonte che toccava il cielo con i suoi colori tenui, la bianca vela di una barca in lontananza che diventava argente al tocco di un qualche pallido raggio di sole, le sembrava di poter passare tutta la vita a sognare in quella piacevole malinconia e non osava pensare al passato né desiderava contemplare il futuro. Tuttavia, il futuro andava affrontato, per quanto duro e spietato fosse. Una sera fu deciso che Margaret e suo padre sarebbero andate a Milton Northern il giorno seguente e avrebbero cercato una casa. Il signor Hale aveva ricevuto diverse lettere dal signor Bell e una o due dal signor Thornton, ed era ansioso di accertarsi subito di non pochi particolari riguardo alla posizione e alle possibilità di successo che avrebbe avuto in quel luogo, il che era possibile soltanto tenendo un colloquio con quest'ultimo gentiluomo. Margaret sapeva che dovevano trasferirsi, ma l'idea di una città industriale la ripugnava e riteneva che l'area di Heston portasse dei benefici alla madre, quindi sarebbe stata propensa a rimandare la spedizione a Milton. Già parecchie miglia prima di raggiungere Milton iniziarono a vedere una nube plumbea che incombeva sull'orizzonte. Era tanto più scura per il contrasto con il grigio celeste del cielo invernale di Heston, dove già c'erano stati i primissimi segni di gelo. Più vicino alla città, L'aria aveva un sapore indistinto e odorava di fumo. Forse, dopo tutto, era dovuto alla perdita della fragranza dell'erba e della vegetazione più che a un qualche sapore o odore reali. Veloci turbinarono lungo strade diritte e desolate, fiancheggiate da piccole case di mattoni tutte uguali. Come chiocce tra i loro pulcini, qua e là si ergevano grandi fabbriche, edifici rettangolari con tante finestre che emettevano sbuffi di fumo, non parlamentare, in una quantità tale che Margaret li aveva scambiati per quella nube che preannunciava la pioggia. Per le strade più lunghe e ampie, dalla stazione all'albergo, la loro carrozza si dovette fermare di continuo. Carri carichi di merce bloccavano le vie principali non sufficientemente larghe. Qualche volta, durante i giri in carrozza con sua zia, Margaret era stata in città, ma lì i veicoli sovraccarichi sembravano destinati a vari scopi. Qui ogni vagone, carro o rimorchio portava cotone, sia grezzo sia in sacchi, che tessuto in balle di calicò. I marciapiedi erano gremiti di gente, la maggior parte indossava abiti di buona qualità quanto a tessuto, ma sciatti e informi quanto a fattura, il che colpì Margaret perché, differente dal modo di vestire, logoro e consunto di una classe omologa a Londra. «New Street», disse il signor Hale, «questa, credo, è la strada principale di Milton. Bell me ne ha parlato spesso. È stata l'apertura di questa strada da una stradina secondaria in una grossa arteria 30 anni fa a far aumentare così tanto il valore delle sue proprietà. La fabbrica del signor Thornton deve essere da qualche parte qui intorno, dato che è un affittuario del signor Bell, ma immagino che l'indirizzo da cui scrive sia quello del suo magazzino. Dove si trova il nostro albergo, papà?» In fondo a questa via, credo. Pranziamo prima o dopo aver guardato le case che abbiamo segnato sul Milton Times? No, finiamo prima il nostro lavoro, papà. Molto bene. Allora vedrò soltanto se ci sono biglietti o lettere per me da parte del signor Thornton. Ha detto che mi avrebbe fatto sapere se avessi avuto notizie su queste case e dopodiché cominciamo. Teniamo la carrozza, è più prudente se non vogliamo perderci e arrivare troppo tardi per il treno questo pomeriggio. Beh, non c'erano lettere ad attenderlo. Si avviarono alla ricerca della casa. 30 sterline all'anno erano tutto quello che potevano permettersi di pagare, ma nel Hampshire avrebbero potuto avere una casa spaziosa e un bel giardino per la stessa somma. Qui, persino un alloggio essenziale con due salotti e quattro camere da letto sembrava inaccessibile. Esaminarono la loro lista, scartando le case man mano che le vedevano, e poi si guardarono sconfortati. «Penso che dovremmo ritornare alla seconda, quella di Crampton. Non lo chiamano sobborgo? C'erano tre salotti, ti ricordi? Quanto abbiamo riso perché aveva lo stesso numero di camere da letto. Ma ho già pianificato tutto. Il soggiorno sul davanti al piano di sotto sarà il tuo studio e la nostra sala da pranzo. Povero papà, perché abbiamo stabilito che la mamma deve avere il soggiorno più confortevole che riusciamo a trovare. E il salotto al piano di sopra, pur se con quell'orribile carta da parati blu e rosa e quella pesante cornice, aveva davvero una bella vista sulla pianura, con quella grande ansa del fiume o canale o quello che è giù in fondo. Quindi io potrei prendere la stanzetta sul retro, in quella sporgenza in cima alla prima rampa di scale, sopra la cucina, e tu e la mamma la camera dietro il salotto. Da quello stanzino nel sottotetto ricaveremo uno splendido camerino per te. Ma e Dixon? E la ragazza che dobbiamo prendere come aiuto? Oh, aspetta un attimo, il mio talento organizzativo mi stupisce. Dixon avrà, fammi pensare, l'avevo pensato prima. Il soggiorno sul retro, penso che le piacerà, si lamenta tanto delle scale a Heston, e la domestica avrà la soffitta spiovente sopra la camera tua e della mamma. Non potrebbe andar bene così? Suppongo di sì, ma la carta da parati, che gusto! E sovraccaricare una casa simile con colori e cornici così pesanti. Non preoccuparti, papà, di sicuro con il tuo garbo saprai convincere il padrone di casa a ritappezzare un paio di stanze. Il salotto e la tua camera da letto, dato che queste sono le stanze in cui la mamma trascorrerà più tempo, e la tua libreria nasconderà buona parte dei vistosi disegni nella sala da pranzo. E quindi pensi che sia la migliore? Se è così, è meglio che io vada subito da questo signor Donkin, a quale fa riferimento l'annuncio. Ti riaccompagno in albergo, così potrai ordinare il pranzo e riposare, e sarò da te per quando sarà servito. Spero di riuscire a ottenere una nuova carta da parati. Anche Margaret lo sperava, ma non disse nulla. Non aveva mai davvero compreso quel gusto che ama l'ornamento, per brutto che sia, più della sobrietà e della semplicità, che sono di per sé stesse l'essenza dell'eleganza. Suo padre attraversò con lei l'entrata dell'albergo e, lasciandola ai piedi della scala, andò dal proprietario della casa che avevano scelto all'indirizzo indicato. Non appena Margaret posò la mano sulla porta del loro soggiorno, un cameriere dal passo veloce la seguì. Chiedo scusa, signorina. Il signore se n'è andato così in fretta che non ho avuto il tempo per dirglielo. Il signor Thornton è passato quasi subito dopo che ve ne siete andati e, come ho capito da quanto ha detto il signore, sareste ritornati entro un'ora, e così gli ho riferito. Ed è ritornato circa 5 minuti fa e ha detto che avrebbe aspettato il signor Hale. Ora è nella vostra stanza, signorina. Grazie. Mio padre sarà presto di ritorno e potrete comunicarglielo voi.